Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quella di oggi è una delle nostre puntate speciali, dedicata questa volta ad un evento e un settore sul quale nel mondo sventola la bandiera italiana. Parliamo di Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione, vetrina dei prodotti italiani d'eccellenza, giunto quest'anno alla sua 17ª edizione. Lì abbiamo realizzato questa puntata per raccontarvi le ultime tendenze del mondo food. Parleremo di droni e agricoltura, di social eating, di food porn, niente di sconcio, non allarmatevi, di lunchbox mania e di street food, insieme ai numeri e agli scenari di un settore che nella Tre Giorni di Parma ha richiamato, pensate, 2700 aziende, mai così tante prima d'ora. Oggi siamo veramente curiosi. Il primo piatto che vogliamo assaggiare è quello di Federico. È un piatto molto bello e anche buono, vi convincerà. Brisolone di cozze di Olbia con latte di cocco spumeggiante. Ok, 10 minuti, giusto per far cuocere il mio San Pietro. Lo taglio a tocchetti. Dovete ideare i piatti. Molto bello. Sono le zucchine ripiene, un classico di questa stagione, perché adesso inizia, è già iniziata insomma da qualche tempo la stagione delle zucchine che si mangiano in mille modi. Era solo un assaggio della buffata che ci propongono ogni giorno i palinsesti televisivi, per non parlare poi di eventi, libri, siti, blog, pagine sui social network. Oggi dal cibo, come andiamo ripetendo spesso, passa tutto quanto fa tendenza. Iniziamo dallo scenario. Simbolo dell'Italia nel mondo, nonostante i fendenti della crisi, il settore alimentare guarda al futuro con ottimismo. Forte della fiducia del consumatore interno e del fascino esercitato su quello internazionale. Diventare prodotto di largo consumo anche all'estero, questa è la sfida dei prossimi anni. Per 6 italiani su 10, rivela una ricerca realizzata da Doxa per Federalimentare, è il settore che meglio rappresenta il made in Italy nel mondo, molto di più della moda, delle auto, del design. Nei prossimi anni è il settore che crescerà di più in valore, più 8,2% a fine 2017, con 800 milioni di nuovi consumatori di prodotti italiani. L'export cresce, più 5,8% nel 2013, ma i consumi interni crollano, meno 4% nel 2013, il calo più forte degli ultimi anni, che porta la contrazione a quasi 14 punti dal 2007. Negli ultimi 10 anni sono ben 12.000 le microimprese del settore che hanno chiuso i battenti. Il tasso di innovazione, tuttavia, resta altissimo. Centinaia anche quest'anno i nuovi prodotti presentati a Cibus, che presto compariranno sugli scaffali dei supermercati. Dai bocconcini di culatello alle perle di caffè, dalla crema di aceto balsamico al pesto con i broccoli, fino al preparato di tartufi per il sushi. E poi ancora parmigiano da spalmare, preparati per cocktail molecolari, e olio extravergine spray, per ridurre gli sprechi. Questo è lo scenario dunque nel quale si muove oggi il settore alimentare. Noi come sempre siamo andati a caccia di novità, tendenze e storie da raccontare. La prima di queste storie mette insieme tecnologia e tradizione e viaggi, per così dire, tra cielo e terra. Parliamo dell'utilizzo di droni, quei robottini volanti di cui si fa un gran parlare in questi ultimi mesi, in agricoltura. Li sta sperimentando una startup tutta italiana, si chiama Aero Drone. Per saperne di più ci è venuto a trovare qui allo stand di Radio 24 a Cibus uno dei fondatori, Romeo Broglia. Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, innanzitutto, cibo, prodotti della terra e droni. Come nasce questa accoppiata? Che cosa fa Aero Drone? Ma Aero Drone è una startup che è nata a Parma lo scorso anno. È stata incubata all'interno dell'incubatore di impresa di B-Venture del gruppo Buongiorno, sorto a Parma. In pochi mesi noi abbiamo avuto un consistente finanziamento da parte di industriali del mondo proprio parmigiano, e oggi noi ci occupiamo di capire come utilizzando tecnologie nuove, visione a bassa quota attraverso i droni, è possibile costruire servizi che abbiano un valore aggiunto rispetto al nostro territorio. Ecco, rispetto ad altre riprese aeree, quali sono i vantaggi? Ma i vantaggi sono sostanzialmente la possibilità di volare frequentemente, a dei costi bassi e ad avere una visione a bassa quota con una risoluzione a terra molto alta. Cerchiamo di far capire agli ascoltatori, questi droni volano sopra i campi di varie coltivazioni, che cosa vedono, quali sono i dati che sono in grado di raccogliere? Ma io farei un esempio concretissimo. Noi siamo a Parma, in Pianura Padana, che è uno dei centri più importanti di produzione del pomodoro di tutto il mondo. L'Italia è la seconda produttrice di pomodoro da industria a livello internazionale. Noi crediamo che i droni siano assolutamente straordinari per accompagnare la crescita del pomodoro e per creare delle condizioni in cui questo prodotto abbia un valore e una qualità altissima, accompagnando tutto questo con un consumo di acqua il più basso possibile, perché noi l'acqua ce l'abbiamo quando non serve e invece quando serve, per esempio d'estate, quando dobbiamo irrigare i campi di mais o di pomodoro, l'acqua viene a mancare. Quindi l'utilizzo, diciamo, oculato dell'acqua è straordinariamente importante. Quindi volare con un drone significa sapere un terreno se ha bisogno di acqua o no, se l'acqua la dobbiamo dare in una zona anziché in un'altra. E poi, guardando come cresce la pianta e utilizzando dei filtri che ci possono sostanzialmente dare delle informazioni sullo stato di vigore della pianta stessa, noi sappiamo se quella pianta è in una situazione di crescita ottimale, se ha uno stress idrico per troppa acqua, per meno acqua, e quindi riusciamo a naturalmente dare queste informazioni a chi governa poi il campo e la crescita del pomodoro o del mais. Si parla di droni per molti campi, oggi è molto di moda, se ne è parlato per le consegne, Amazon ha fatto un gran discutere, insomma, del progetto e dell'investimento, si parla addirittura di droni camerieri nei bar, nei ristoranti, insomma davvero per le pulizie domestiche addirittura ci sono dei progetti anche in questo senso, micro droni a pette che puliscono tutta la casa. Ecco, al di là poi di quello che è di moda, insomma, in questo momento davvero i droni diventeranno, visto che lei è un insider, diventeranno i compagni delle nostre giornate, saranno l'alleato del consumatore del futuro? Ma sicuramente è una suggestione straordinaria, un'opportunità irripetibile. Quello che sarà possibile non lo sappiamo ancora. Sicuramente molti di questi scenari saranno realizzabili. Noi proviamo adesso a occuparci delle cose concrete. Grazie a Romeo Broglia per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro. È la soggettiva del pollo arrosto che senza testa pensa più di prima. La sua coscienza rimane sveglia, giudica tutto quello che passa. È la soggettiva del pollo arrosto che guarda il mondo mentre si gira tra le ditate degli affamati che ormai si leccano la vetrina. Già mezzogiorno con le patate dell'altro ieri resuscitate. Cibo e nuove tecnologie, dunque nuovi approcci per migliorarne non solo la produzione ma anche la comunicazione e la sua valorizzazione attraverso le nuove abitudini legate al cibo. La prossima storia ha a che fare con un fenomeno in fortissima ascesa, parliamo della lunchbox, in milanese la schiscetta, il baracchino in piemontese, insomma il pranzo da casa. Complice la crisi e uno stile di vita più sano, 7 italiani su 10, ci dice un'indagine Coldiretti Censis, decidono di portarsi il pranzo da casa in ufficio. È un trend in fortissima ascesa, una pratica trasversale per età, classe sociale, professione, uno stile di vita, sostiene Alessandro Vannicelli, blogger, autore del libro Schiscetta perfetta, mi porto il pranzo da casa. Bentrovato Alessandro. Ciao a tutti, buongiorno. Il libro nasce dal tuo blog su Tumblr che giorno per giorno documenta la tua schiscetta, è così? Sì, esatto, è nato circa più di un anno e mezzo fa, schisando.tumblr.com. Volevo dare un punto di vista personale, ovviamente, su quello che erano le mie pause pranzo. Avevo questa grandissima passione per il cibo, per il food, per le tematiche comunque sia relative alla buona tavola, e volevo fare un blog che mi permettesse di esprimerle. In quel caso ho pensato che fosse qualcosa che fosse vicino alle mie abitudini, ma anche a quelle dei miei amici e dei miei colleghi. La schissetta in qualche maniera è un po' declinata al verbo nel blog, come dico, schissando. Perché è uno stile di vita? Ma perché in qualche maniera uno stile di vita vuol dire essere in qualche maniera liberi, cioè trasformare in positivo qualche cosa che in realtà in generale è sempre stato visto come qualcosa di cheap o negativo. Io volevo, siccome sono anni che ogni volta ci sentiamo dire che il paese è in crisi, sono crisi nei consumi, crisi di qua, crisi di là, volevo affrontarla in maniera più positiva. E secondo me anche il saper quello che si mangia durante la pausa pranzo e gustarsela ha un suo perché. Noi oggi siamo a Cibus, quindi le vetrine di prodotto sono moltissime. Secondo te è un trend quello della lunchbox, della schiscetta, insomma, al quale l'industria alimentare inizia a guardare? Intendo non solo dal punto di vista della comunicazione, ma anche proprio del prodotto, packaging particolari, eccetera. Allora, secondo me è un trend che sicuramente sta venendo fuori. Non penso sia ancora maturo come trend, ovvero penso che le aziende se ne siano accorte, ma non c'è ancora una vera e propria esplosione. A mio parere questo avverrà probabilmente con l'approssimarsi dell'Expo. Oggi si parla molto di food porn. Tranquillizziamo subito gli ascoltatori, non si tratta di pratiche trasgressive che hanno a che fare con cibo e sesso, è l'etichetta con cui si indica questa rappresentazione del cibo molto patinata, invitante, il cibo da mangiare con gli occhi, ecco, per così dire, il cibo che passa in TV, sui social, sulle riviste, cibo che scatena il desiderio, appunto, questo è il link, ecco perché questa definizione. Che cosa ne pensi? Beh, diciamo che potrei rientrare pienamente nella categoria, anche perché sono una delle persone che posta anche su Instagram con l'hashtag food porn, ma anche su Tumblr, per cui rientro pienamente in questa categoria e magari ne sono anche orgoglioso, nel senso, anche perché ricercare l'estetica nel piatto è una cosa che c'è da sempre in realtà. Non penso si sia inventato nulla, semplicemente prima la fruizione era per pochi sui libri di cucina, ora con l'avvento del mobile che è a portata di mano e di click tutto ciò è molto più semplice e immediato. Grazie ad Alessandro Vannicelli per essere stato con noi. Grazie a voi. Essere e avere. Adesso, dato che Rubbio mi ha sfidato con una super piella, io devo essere per forza più bravo di lui a fare la piella. Pomodori freschi, ci facciamo la salsa. Secondo me a Tiellaro ci mette la passata di pomodoro. Coraccio. È rimasta un pezzo di quella di Rubbio e un pezzo di quella di Carlo. A questo punto non mi resta che dire che la sfida si è risolta in parità. Così, unti e bisunti, la trasmissione cult su D-Max che porta Chef Rubbio alla scoperta dei giacimenti dello street food italiano. Una tradizione, quella del cibo di strada, che sta attraversando una vera e propria riscoperta, uno dei fenomeni sociali e culinari più interessanti del momento. Ne parliamo con Gigi Padovani, autore di Street Food all'italiana. Ciao Gigi, bentrovato. Sì, buongiorno ai vostri ascoltatori. Effettivamente noi abbiamo intitolato il nostro libro Street Food all'italiana, edito da Giunti, e questo street food all'italiana è quasi un ossimoro, si potrebbe dire, perché c'è la moda di parlare con questi termini inglesi, però in verità noi dell'Italia abbiamo una grandissima tradizione di cibo di strada, dalle carsi le dita davvero. Facciamo un esempio proprio minimo: maccheroni e pizza, che sono i nostri simboli della cucina italiana, sono nati come cibo di strada E quindi noi vogliamo dimostrare attraverso questo libro, che è fatto di tante storie, di incontri, di ricette, e soprattutto diamo voce a chi forse nei chioschi di solito non ce l'ha. Non solo chef stellati, che pure ci sono, perché abbiamo anche Massimo Bottura, Fabio Picchi, Davide Scabin, Ciccio Sultano e Mauro Ugliassi. Qualcuno li ha definiti gli chef da marciapiede, perché appunto si ispirano a questi piatti della tradizione italiana di strada. Però anche loro, diciamo, raccontano qualche pezzo di storia della nostra identità. Marchesi, Gualtiero Marchesi, il grande maestro della cucina italiana, dice: il cibo di strada è la storia di un paese. Gigi, passami Clara, che è la coautrice del libro. Clara, volevo chiederti, definite questi food maker italiani gli eroi del quotidiano, perché questa definizione? Perché comunque tutti i giorni, alzandosi prestissimo e stando nei loro chioschi quasi 24 ore, bollono, friggono, impastano con le intemperie, il caldo e il freddo, e portano avanti una tradizione che altrimenti andrebbe persa. La portano avanti con orgoglio da generazioni, e quindi è importante dare loro voce e dignità. Grazie a Clara e Gigi Padovani per essere stati con noi. Bene, grazie a voi, viva il cibo di strada. Diamo il benvenuto, ci è venuta a trovare qui allo stand di Radio 24 Elda Ghiretti, brand manager di Cibus. Buongiorno, innanzitutto buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Facciamo un bilancio di questa 17ª edizione di Cibus, grande fermento, un numero di espositori mai così alto prima d'ora, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione. Qual è la sensazione che si è raccolta tra gli espositori? Siamo molto veramente molto soddisfatti, al di fuori da ogni retorica vogliamo condividere questo successo con i nostri espositori, un numero record, 2700 aziende e moltissimi migliaia di buyers provenienti dall'estero, un fermento negli stand passeggiando in mezzo agli espositori che fa veramente ben sperare nella ripresa del mercato interno, ma soprattutto nel mercato internazionale. Lo abbiamo detto con i dati di apertura, contrazione del mercato interno, grandi prospettive per le esportazioni. Come vive il settore questa sorta di dicotomia tra un consumatore di casa nostra che ovviamente ha il freno tirato e invece un consumatore internazionale che ha voglia di prodotti italiani? Hanno fatto proprio della crisi un'opportunità, perché anche le aziende più piccole si stanno strutturando per andare fuori, ci sono moltissime novità di prodotto, ma molto intelligenti, i prodotti antichi rivisitati secondo le nuove tendenze di consumo, con meno contenuto di sodio, piuttosto che con un packaging più easy che permette di economizzare il prodotto, di usarne meno, quindi di alleggerire l'apporto calorico. Ci sono dei prodotti della tradizione, tipo i formaggi piuttosto che i burri senza lattosio per persone allergiche. Cibus è una fiera per operatori, però la ricaduta sul consumatore è immediata, perché molti dei prodotti che vediamo in vetrina in questo momento tra poco saranno sugli scaffali dei supermercati. Ecco, quindi se vogliamo dare qualche anticipazione al consumatore, che cosa si deve aspettare? Si va dai bastoncini di tartufo per il sushi, dall'olio spray per condire, delle sfoglie di formaggio lunghissime per decorare, ci sono le possibilità di sferizzare i liquidi per fare dei cocktail o dei dolci in casa. Ci sono dei kit per le merende dei bambini a componenti nutrizionali bilanciate di gusto col formaggio, frullato, eccetera. Ci sono dei piatti di chef pronti che in due minuti sono sulla tavola di tutti, e noi tutti possiamo fare finta di essere degli chef stellati. Il pesto fatto con il tofu, io non ne ho, ne abbiamo mappate più di 100, addirittura noi abbiamo mappato tutti quelli che sono gli espositori che hanno le certificazioni halal e kosher, quindi pronti ad entrare su dei mercati con milioni di persone. Quindi passi in avanti verso varie tipologie anche di consumatori con tradizioni diverse. Questo è un bellissimo segnale, l'innovazione di prodotto del resto lo è sempre moltissimo. Elda Ghiretti, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. C'era una volta una chat sul sito di Macchia Nera. sera in disuso e ormai vecchia, così come il terminale, con una finestra su un piccolo schermo blu. Siamo all'ultima pagina di questa puntata dedicata ai fenomeni emergenti del mondo food. Parliamo di social eating, cene tra sconosciuti in case private organizzate dai padroni di casa per socializzare, fare networking e anche per portarsi a casa, perché no, un reddito integrativo che di questi tempi non guasta. È un fenomeno che fa riferimento alla sharing economy, che cosa più del cibo del resto si presta alla condivisione, come tutte le pratiche legate alla sharing economy è potenziato, passa dalla rete perché in rete ha trovato le sue piattaforme di riferimento. Quella italiana è Gnammo. Gianluca Ranno è il fondatore. Buon pomeriggio Gianluca. Buon pomeriggio a te e grazie per avermi chiamato. Come nasce Gnammo? Che cos'è? Come funziona? Allora, Gnammo nasce in due luoghi diversi dell'Italia, nel senso come gli ingredienti di una buona ricetta, un po' al nord e un po' al sud, che poi si sono uniti ed hanno dato origine a questo piatto che si chiama Gnammo. Siamo nati nel 2012, nel senso siamo diventati operativi nel giugno 2012, e Gnammo permette fondamentalmente di fare due cose. Permette da una parte di organizzare eventi culinari, quindi tutte le persone sia appassionate di cucina ma anche personal chef possono andare su Gnammo e creare il loro evento. E come lo fanno? Lo fanno con un tool che permette di descrivere il menu che presenteranno, la location, quindi il luogo in cui faranno l'evento, dare un prezzo e dire quante persone possono ospitare. A questo punto il tutto viene pubblicato su Gnammo e tutte le persone che noi chiamiamo Gnammer, cioè le persone che possono chiedere di mangiare, lo vedono. Quindi ci si può iscrivere come cuochi o come commensali, giusto? Esattamente. Siamo quasi a 20.000 iscritti in tutta Italia. Quali città coprite, specialmente immagino Roma, Milano o anche centri più piccoli? Ovviamente copriamo le grosse città, come hai detto tu, senz'altro Roma, Milano, poi ovviamente Torino, Firenze, Venezia, abbiamo una roccaforte a Cagliari, poi al sud abbiamo Bari che è molto forte perché c'è uno dei tre soci, Walter, che è di Bari, e poi si sta attivando anche piano piano e con fatica la Sicilia. Qual è l'identikit del vostro utente di riferimento? Allora, il nostro utente, visto che tu hai usato la parolina magica sharing economy, è un utente che normalmente utilizza già dei sistemi collaborativi come potrebbe essere, faccio il caso più conosciuto che è quello di Airbnb, quindi un utente che è già abituato ad avere esperienze di questo tipo, quindi di condivisione. L'età è quella che va dai 25 ai 45, più o meno la nostra fascia di utenti target. Immagino che si creino anche situazioni particolari, raccontaci qualche aneddoto. Ah, guarda, se ne creano delle più disparate. Ti racconto il più divertente perché ha dato origine a un bambino. Nel addirittura? Senso, sì. Nel Cupido? Senso, ad, esattamente, al nostro primo evento, Gnammo, che abbiamo fatto a Milano, una coppia di ragazzi, tra l'altro Monica, che è una dei nostri primi, come dire, collaboratori, nonché una nostra fan sfegatata, ha conosciuto il suo ragazzo e adesso si sono sposati. Ma poi succedono anche situazioni, e stanno per avere un bambino, ma poi succedono situazioni molto divertenti, perché magari uno realizza un evento perché è un appassionato di cucina, ma magari fa totalmente un altro lavoro e mi vengono in mente due bravissime designer, e poi magari si trovano ad avere anche occasioni di lavoro in quello che, diciamo, è il loro lavoro principale, quindi è un networking allo stato puro. In questa puntata poco fa abbiamo parlato di food porn, della mania, quasi un'ossessione ormai, di fotografare i piatti prima di mangiarli. Succede anche alle vostre cene? Guarda, succede poco alle nostre cene, di solito si preferisce mangiare e chiacchierare, però succede anche questo. Grazie a Gianluca Ranno per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata e buoni pasti. Finisce qui questa puntata speciale di Essere Avere, realizzata a Cibus 2014, il Salone Internazionale del Cibo che fa di Parma la capitale mondiale del food. Trovate tutto come sempre sulla nostra pagina Facebook, la puntata da scaricare lì e anche sul sito di Radio 24, in attesa di risentirci sabato prossimo alle 16.30. Grazie a Paolo Corleone in regia, un saluto da Maria Luisa Pezzali.